E sapete, abbiamo già vissuto il primo punto del messaggio. Lo abbiamo già fatto. E il primo punto del messaggio che c'è oggi per noi in serbo è: degno di te, Gesù. Degno di te. Ai tuoi piedi, e solo ai tuoi piedi, io posso scoprire di essere degno di te. Saremo mai degni di Cristo Gesù? La risposta è no. La risposta è no. Ma mentre eravamo ancora lontani, ve lo ripeterò fino alla nausea, tuo Padre, mentre eri ancora lontano, ti ha visto ed è corso verso di te e ti ha abbracciato e ti ha baciato e ti ha ribaciato, e le cose vecchie sono passate. Quanto è difficile far passare le cose vecchie, nonostante siano passate. A volte ho la sensazione che le cose vecchie non passino mai. È vero, sono sempre lì ad additarti, sono sempre lì a punirti, sono sempre lì a dichiarare bugie sulla tua vita. Le cose vecchie sono passate. Ecco, dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, sono diventate tutte nuove. E la pienezza della Deità che abitava in Cristo Gesù è venuta ad abitare in me e in te. E noi non siamo più stranieri. Tu non sei un ospite. Tu sei un concittadino dei santi, tu sei un membro della famiglia di Dio. Non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei erede per grazia di Dio. E Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel Figlio suo. Sapete, Paolo ha scritto ai Galati: infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo e vi siete rivestiti di Cristo. Il Padre ci ha visto, ci ha accolto, ci ha rivestito di Cristo. Ci ha rivestito, ti ha rivestito del nuovo che va rinnovando se stesso in conoscenza secondo l'immagine di colui che ci ha creato. Queste sono le verità che devi dichiarare su di te quando pensi di non essere degno. Sapete, io non ho fatto altro che citare dei versi. Colossesi 3:10, Galati 3:27, 1 Giovanni 5:11, Galati 4:7, Efesini 2:19, Colossesi 2:9, 2 Corinzi 5:17, Luca 15. Li ho scritti in sovraimpressione perché un po' ossessivo compulsivo come me deve segnarsi tutte le cose che sono importanti. È così importante. E ho scritto nei miei appunti: è essenziale per noi nutrirci della sua parola. Io non devo raccontarvi una bella storia, perché la bella storia non serve a nessuno. A volte anche in TV raccontano le belle storie e poi è finito. È la parola di Dio, è questa parola che ci trasforma. E per quanto sia essenziale per noi nutrirci di questa parola, è fondamentale che questa parola non sia qualcosa che io dico a te, o qualcuno dice a te, ma questa parola deve essere qualcosa che tu dici a te stesso. È fondamentale che questa parola sia qualcosa che tu dici di te stesso. Per questo è importante che tu dica a te stesso che sei degno. Sei degno perché il Padre ti ha accolto. Perché il Padre lo ha scelto, lo ha stabilito. E chi sei tu? Chi sei tu per dire qualcosa diversa da quella del Padre? Sapete, nel 2006, maggio 2006 forse, un verso dell'Apostolo Paolo mi ha colpito così tanto e si trovava in Galati 2:20. Mi ha colpito così tanto che l'ho imparato a memoria, ho fatto il mio indirizzo email, delirio, ok? E questo verso dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Ed è l'Apostolo Paolo che lo diceva ai Galati. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa vita che io ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quando io l'ho letto, ho detto, caspita, e perché non le posso dire io queste parole? E se io oggi dovessi fermarmi con la mia squadra di ragazzi con cui servivamo degli upside down allora, e dovessi dire queste parole a loro, dovessi dire, ragazzi, guardatemi, io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E sapete, poi gli anni passano, le stagioni cambiano, le cose accadono, la vita accade. Ed ero con la mia amica Sara, quando ci fermavamo a dirci tutte le nostre turbe psicofisiche, circa una decina d'anni fa. E mi stavo parlando, stavo spiegando, stavo dicendo tutte le mie turbe, il mio non sentirmi degno, il mio non sentirmi adatto. E lei poi mi ha detto, ma che stai dicendo? Ma scusami, se tu hai insegnato a me che Galati 2:20 è il tuo verso, vedi tutto quello che è successo perché tu hai confessato questo verso per te. Di che cosa stai parlando? È fondamentale che questa parola diventi la tua rivelazione. E io me la sono scritta, l'ho imparata, ho provato, me la sono detta, però forse non era scesa qui. Non era scesa qui nella stagione in cui ero. Non era scesa qui nelle cose che la vita mi avevano portato ad affrontare. Ed era il momento di farla scendere. Perché era la verità sulla quale io avevo basato la mia vita e la mia esistenza. Qual è il tuo verso? Qual è il verso che dà benzina al motore dello Spirito Santo che è in te, nella stagione in cui sei oggi? Ce l'hai? È quello che ti serve. È quello che ti serve. Ti serve oggi, ti serve domani, ti serve dopodomani, ti serve forse dopo 7 anni che l'ho imparato, perché questa parola è viva. Era viva nel 2006, era viva 10 anni fa ed è viva oggi, per me, per dire chi io sono. Perché ai tuoi piedi io scopro di essere degno di te, perché ai tuoi piedi Gesù è il mio posto sicuro. Punto numero 2 di quest'oggi, Gesù, il mio posto sicuro. Forse non hai mai sperimentato il segreto della sua presenza. Sì, forse preghi, leggi ogni giorno quello che è il capitolo del giorno, però il segreto della sua presenza, come tuo posto sicuro, come rifugio, come la tua certezza, come la tua protezione. Oggi è il momento di sperimentare che Gesù è il tuo posto sicuro. Sapete, tante volte il nostro peccato, il tuo peccato, diventa il tuo posto sicuro. Perché è segreto, è vero. Quanti peccati sono segreti? Nessuno lo sa, e ci illudiamo che lo sappiamo solo noi e forse le persone che abbiamo coinvolto nel nostro peccato. E ci illudiamo che lì siamo protetti. E ci illudiamo che lì siamo al sicuro. A volte le nostre dipendenze diventano il nostro posto sicuro. Dove ci rifugiamo quando abbiamo paura di quello che può accadere. Quando abbiamo perso le nostre certezze, le nostre dipendenze diventano il nostro nascondiglio, diventano il posto dove pensiamo di sentirci a nostro agio, dove pensiamo di sentirci bene, le uniche cose che sappiamo fare forse. Ma la mia domanda a me e a te oggi: troviamo veramente tutto questo? Trovi veramente tutta questa sicurezza, tutta questa certezza, tutta questa protezione del tuo peccato? Trovi veramente tutto questo nella tua dipendenza? O forse ogni volta ci ritroviamo al punto di partenza, se non peggio di prima, piuttosto che avere pace e serenità. Gesù è il tuo posto sicuro. E io sto dicendo questo non perché ci dobbiamo accusare e dobbiamo aumentare il livello di non dignità per arrivare davanti a Dio, ma per riconoscere che c'è un posto migliore ed è Gesù. C'è un posto migliore dove possiamo andare ed è Gesù. E io lo so che ti senti di morire quando non hai più quella dipendenza dove vuoi correre, quando non hai più quel peccato dove devi andare, ma è Gesù. E forse questa mattina è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui sei stato in quel posto segreto, nel segreto della sua presenza, al sicuro. Forse è passato troppo tempo e ormai ti sei dimenticato come si arriva lì e ti sei perso. A me è successo tante volte. E sapete, quando ti perdi, il tuo lavoro diventa il tuo posto sicuro. Hai pregato così tanto, ora ce l'hai ed è tutta la tua unica apparente certezza. Finalmente, grazie Gesù. E ti sei dimenticato di ritornare da Lui. O forse questa relazione d'amore o d'amicizia è diventata il tuo posto sicuro, il tuo tutto. E tutto gira attorno a Lui e tutto gira attorno a Lei. E tutto non gira se Lui non c'è. E tutto non gira se Lei non c'è. O forse il tuo posto sicuro addirittura a volte diventa il nostro servire Dio. Diventa il nostro servire Dio il nostro posto sicuro. E la nostra identità in Cristo diventa quello che facciamo. E se per un motivo o per un altro smettiamo di fare quello che facciamo, ci sentiamo persi. E chi siamo? Non abbiamo più la nostra certezza e il nostro posto sicuro. E sapete, io credo che Non devo spendere altre parole su questo, perché siamo al terzo anno di pandemia e credo che ci abbia insegnato che niente, che di quello che si può toccare, materiale, su questa terra può darci sicurezza, può darci pace, può darci serenità, niente. Perché oggi c'è, non si sa domani se c'è. Anche se stai bene, non lo sai se stai veramente bene, perché se sei asintomatico, sei comunque che stai male. Neanche la salute più. Ma Gesù, Gesù è il tuo posto sicuro, sempre. Ed è lì che vogliamo andare oggi. È lì che vogliamo andare in questo momento. Sapete, dopo che avevo ricevuto nel cuore tutto questo messaggio, ho scoperto una canzone, è uscito un album di una delle mie worship, delle mie band di adorazione preferita, e il titolo di questo brano è Posto Segreto. Sembra fatto, cioè se io l'avessi voluto organizzare non ci sarei riuscito, ed è diventato la mia colonna sonora. Io in ogni stagione ho una mia colonna sonora, in genere è un brano col pianoforte, malinconico, dolce, romantico, dove io posso piangere tutto il tempo che voglio, la presenza di Dio. A me piace così, perché penso a che non sono degno, poi dico vabbè ma tu mi hai scelto, e mi faccio tutti i miei ragionamenti, e poi alla fine Gesù mi convince. E poi mia moglie entra in camera, mi vede piangere e mi guarda, ma questo qua. Questo è successo ieri, mentre ero in questo punto, stavo ripetendo questo punto della predica e stavo piangendo per i fatti miei, ed è entrata mia moglie con Zora in braccio e mi ha visto e ha detto: il segreto della presenza di Gesù. E voglio leggervi il testo di questo brano perché spiega esattamente quello che vi ho appena detto. E dice così: mi ricordo l'inizio, quando ho trovato il posto segreto. Non so perché mi sembrava familiare, ma l'ho capito subito. C'erano volte in cui mi sembrava così semplice e a volte così insicuro, ma non un momento è mai stato sprecato, inginocchiato dietro quelle porte chiuse. Perché il luogo segreto è segreto. Ecco da dove prende il suo nome. Non si nasconde, ma è nascosto. Lontano da tutti gli schemi religiosi. No, non ti porterà un riconoscimento oppure il venire chiamato su un palco, perché la sua melodia è sacra. Sei tu che canti nel luogo segreto. L'invito è sempre aperto, non c'è nessuna parola da dire. Se tu lo vuoi, puoi arrivarci. Ci sono mille modi diversi per farlo. E non c'è gloria del metodo, nessuno è un metodo giusto e nessuno è sbagliato. Riponi solo la tua fiducia in Gesù e poi inizia a cantare insieme a Lui. Proprio così come sei, sei il benvenuto. Non c'è nessuna parte che devi recitare, nessuno da impressionare, non potresti farlo comunque. Perché quando diventa troppo complicato, quella melodia svanisce. Ma se ti prendi tempo per ascoltare, puoi sentire il ritornello del paradiso. E ci saranno giorni in cui sembrerà distante, così ben oltre la mia portata, come se i miei fallimenti chiudessero l'ingresso e il mio spirito avesse perso le chiavi. Ma la bellezza del segreto, ed è per questo che sono così grato, è che la tua presenza non ha bisogno di me per buttare giù una porta aperta. Quindi sto correndo verso il segreto, ci vado oggi. Non ho motivo per non adorare e ritornare a non sentirmi degno. Non c'è tempo per le inibizioni o preoccuparsi di ciò che la gente dice. Non perderò un altro minuto, portami nel luogo segreto. Ed è questo che vogliamo fare adesso. Stiamo per dichiarare che Gesù è il nostro Salvatore. Stai per dire e per confessare con la tua bocca che Gesù è il tuo Salvatore. Lo stai dicendo tu in prima persona con queste parole. Alziamoci in piedi, qui a Mottola, a casa. Viviamo questo brano, questa adorazione, sapendo che stiamo andando in quel luogo segreto, facendo di queste parole le tue parole, la tua confessione, qui e ora. Grazie perché tu hai vinto il mio cuore. Fai di questa la tua confessione in questo momento. Diglielo. Digli grazie Gesù, perché tu hai vinto il mio cuore. Grazie perché lo hai vinto. Al di là di quello che io penso, al di quello che è stato, al di là di quello che gli altri pensano, grazie perché tu lo hai vinto, Gesù. Solo tu potevi. Solo tu potevi. Sapete, quando le cose vecchie sono passate, non sono più un ostacolo nel quale noi possiamo inciampare. Quando le cose vecchie sono passate, non sono più un ostacolo nel quale noi possiamo inciampare, ma diventano una dimostrazione delle cose nuove che Gesù fa attraverso di me e te. Impossibili, impossibili per me e te, ma possibili per Lui. Accomodiamoci. Mi ha colpito leggere le parole dell'Apostolo Paolo. Sapete, alla conclusione del suo terzo viaggio missionario, sta rientrando a Gerusalemme sapendo, gli hanno profetizzato, che sarebbe stato legato, che sarebbe stato imprigionato. Eppure lui dice in Atti 21:13, dice: a me non importa, inutile che piangete per me, che piangete a fare? Io non ho paura di essere imprigionato e legato, anzi vi dirò di più. Dice ai credenti che lo stavano ospitando in quel momento prima che lui arrivasse a Gerusalemme: io sono disposto a morire per il nome di Gesù Cristo. E quindi arriva a Gerusalemme a conclusione del suo terzo viaggio missionario e viene arrestato. E quando viene arrestato chiede al tribuno di poter un attimo parlare con i giudei che l'avevano arrestato lì sulle scale prima di essere portato via. E leggiamo insieme dal verso 3 di Atti 22. E mi hanno colpito le sue parole e ora vi spiegherò perché. E lui dice: io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. E mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi: Signore, che devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me. E così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me. e accostatosi mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. Ed io dissi: Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Mi hanno colpito queste parole di Paolo, perché ho notato la contrapposizione che c'è tra i versi 19 e 20 e il verso 4. E ho chiesto a Davide di proiettarli. Entrambi, questi due trafiletti, parlano delle cose vecchie che sono passate. Però nei versi 19 e 20, nonostante queste cose vecchie sono passate, sono vicine. Per Paolo, quando è stato chiamato, le sue cose vecchie passate gli sembravano vicine. Tanto vicine a volte che mettono in discussione le cose nuove che Dio ti ha chiamato a fare. E ti fanno sentire non degno di poter essere tu quello che Gesù ha chiamato. Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo. Come puoi mandare me? Le cose sono passate, io ti ho accettato. Ma c'è una storia, c'è un passato. Io non sono la persona giusta per fare quello che tu mi stai chiedendo di fare. Eppure Paolo è andato. Non si è fermato al suo non sentirsi degno in quel momento. Ha ubbidito comunque. Ed è questa la chiave. Sapete, io ho sbagliato tante cose e faccio tanti errori, ma una cosa giusta la faccio, lo devo riconoscere un po' a me stesso, che caspita. Quando dico sì, dico sì. Mi sento una cacchina, ho detto sì. Gesù farà diverso. E Paolo ha detto di sì, fino ad arrivare a dire nel verso 4 che le cose vecchie che sono passate sono una dimostrazione della potenza dello Spirito Santo che opera in noi. Perché così è iniziato il discorso. Quando è stato incarcerato e picchiato dalle persone che lo stavano accusando, gli ha detto: ok, io facevo come voi, ma ho incontrato Gesù. Ma per la potenza dello Spirito Santo che ha operato in me, io sono una persona nuova. Io faccio cose nuove, perché Gesù ha reso tutte le cose nuove. È la potenza dello Spirito Santo che opera in te, che ti permette di vivere tutte le cose nuove e di dire: ecco, tutte sono diventate nuove. Ora, qual è il frutto dello Spirito? Il frutto dello Spirito, Galati 5, è amore, è gioia, è pace. E di che cosa abbiamo parlato fino ad ora? Se non di gioia, se non di amore, se non di pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Verso 23, contro queste cose non c'è legge. Contro queste cose nessuno può aprire bocca. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Punto numero 3 del nostro messaggio di oggi, e concludiamo, è ripieno di Spirito Santo. Ripieno di Spirito Santo, ai tuoi piedi, nel mio essere degno di riceverti, nel mio vivere la sicurezza del segreto della tua presenza, io posso essere ripieno di Spirito Santo. Quando possiamo definirci ripieni di Spirito Santo? Come possiamo definirci? Come si può definire la pienezza dello Spirito Santo? Vi racconto due storie. Quando ero giovane e studiavo all'università, guidavo un gruppo di studenti interdenominazionale composti da tante chiese della regione. E c'era questa ragazza di cui avevo grande stima. E questa ragazza era evidente ripiena di Spirito Santo, perché era guidata quando parlava con gli altri, era incisiva, riceveva rivelazioni di quello che dovevamo fare e dire e vivere, che era evidente che avesse lo Spirito Santo. Infatti spesso chiedevamo a lei di condividere qualcosa con il resto del gruppo. E poi un giorno, dopo tanto tempo, è venuta da me, entusiasta, aveva gli occhi lucidi, e mi ha detto: Antonio, tu non sai cosa è successo domenica scorsa in chiesa mia, sono stata battezzata nello Spirito Santo. E io l'ho guardata, ma perché non eri già battezzata dallo Spirito Santo? Ho parlato per la prima volta in nuove lingue, sono stata battezzata nello Spirito Santo. Seconda storia. Io parlo in nuove lingue da quando avevo 9 anni. Se tu mi chiedi che cosa è successo, quale lezione teologica hai seguito nel percorso 3, io non lo so, non l'ho fatto. So solo che nel mio essere un bambino di 8 anni ho creduto a quello che mi è stato detto e parlavo in nuove lingue. E so che quando ho rinnegato Gesù e mi sono allontanato da Lui e ho peccato e poi sono ritornato da Lui, quel suono l'ho riconosciuto. Era quello che avevo sentito quando avevo 8 anni. Quanto il tuo non sentirti degno davanti a Dio non ti fa essere libero di ricevere i doni che Lui ha preparato per te? Credete veramente che quella ragazza è stata battezzata nello Spirito Santo quel giorno, semplicemente perché ha parlato in nuove lingue? O forse la pienezza di Dio che abitava corporalmente in Cristo Gesù, che è venuto ad abitare in noi, già ci dà una caparra di Spirito Santo che vive in noi e che noi possiamo richiedere il suo riempimento in un qualsiasi momento della nostra vita? Pensate che io a 8 anni ero più bravo di lei? Non credo. Pensate che io a 21 anni, quando l'ho riscoperto, ero speciale? Non credo. Tuo padre è generoso e ti ha visto. Da lontano è corso verso di te e ti ha abbracciato e ti ha rivestito e ti ha messo l'anello. E l'anello è quel sigillo del fatto che tu appartieni a Lui, e quel sigillo è lo Spirito Santo che Lui ci ha dato, che è in noi e che dobbiamo ravvivare e che dobbiamo far crescere. E tuo padre è generoso, e nella sua generosità Lui ti riempie di amore, perché è generoso di amore, e della sua generosità ti riempie di gioia, perché lui è gioia, e della sua generosità ti riempie di pace, perché lui è pace, lui la dà non come il mondo la dà, e della sua generosità lui ti riempie di pazienza, e della sua generosità lui ti riempie di bontà e di benevolenza e di autocontrollo e di mansuetudine. Come fai a sapere se sei ripieno di Spirito Santo o no? Vedi il frutto che esce da te. È lì che ti devi concentrare. E perdonare quella persona. È difficile. È difficile. Ma tu sei ripieno di Spirito Santo. Hai crocifisso Gesù, hai crocifisso te stesso. E Gesù è stato crocifisso per colpa nostra, quindi ho detto una cosa giusta. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne. Perdi la pazienza. È lì che devi far entrare lo Spirito Santo. Non riesci a superare questa dipendenza. È lì che deve arrivare l'autocontrollo. Non è tuo. È il tuo inginocchiarti nella tua cameretta, il tuo ripeterglielo. Io lo so che ho sbagliato ieri, faccio schifo, ma sto venendo davanti a te perché so che tu mi hai visto da lontano e io voglio sentirmi al sicuro con te, Gesù. Non con quella cosa, con te, perché tu hai parole di vita eterna. Da chi andrò? Da chi andremo? Sei tu che hai parole per me. Riempimi, riempimi di te. È così che si fa. Nessuno è più bravo di me o di te. Siamo tutti nella stessa barca. Non cercare la pienezza dello Spirito Santo nell'esteriore, ma cercalo nell'interiore. Cercalo in quello che non si vede, perché quello che non si vede si manifesterà nel visibile attraverso di te. 1 Corinzi 12:7 dice che a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Il Signore lo sa quello che deve fare. E se deve guarire qualcuno, Lui lo sa. Non ti concentrare che devi ricevere il dono per fare il santone di turno. Sono stati tutti svergognati e sbugiardati quelli che in passato lo facevano. Semplicemente perché erano persone come me, come te. Che hanno peccato. E nessuno poi gli è andato più dietro. Non ricercare il profeta di turno che ti deve dire quello che deve succedere domani per te, come se fosse l'oracolo. Ricerca Gesù e lo Spirito Santo in quello che non si vede, nel segreto, perché Lui si servirà di te. E sapete, io so di almeno 5 persone per le quali io ho pregato e dovevano morire e non sono morte. E voi pensate che loro sono guarite o sono ancora vive solo perché io ho pregato? Perché sono speciale, sono bravo? Perché Gesù si è servito delle mie parole, della mia fede, della mia preghiera, come della preghiera delle persone intorno a me che hanno fatto la stessa cosa che ho fatto io per intervenire nella loro vita. Non cadere nella trappola di ciò che si vede. Rimani nel segreto di quello che non si vede ai suoi piedi. Alziamoci in piedi. Voglio pregare a conclusione di questo messaggio, sia qui, sia a Mottola, sia a casa. Sai, non sentirti degno di Dio, non essere libero di ricevere i suoi doni per te, è qualcosa che dobbiamo lasciare. Perché non devi avere un pedigree di un certo tipo per saper e riuscire a ricevere un dono, che possa essere anche il dono delle nuove lingue. Non è assolutamente così. È un dono. E lo Spirito Santo vuole sbloccare la libertà dentro di te di essere in grado di poter ministrare quel dono, di essere in grado di poter fermarti con una persona e dire: sei malata, io voglio pregare con te e voglio credere che in questo momento lo Spirito Santo ti guarisce. Quando avevamo gli Upside Down, facevamo il musical per strada, c'era un ragazzo zoppo e stava anche un po' sotto effetto di stupefacenti, però ci fermammo, era bitonto, e io dissi: senti, preghiamo perché Gesù vuole guarire il tuo ginocchio. Ero pazzo, ero incosciente, non lo so che cosa ero. Lui è guarito. Ha iniziato a saltare, non poteva neanche più giocare a calcio. Io non lo so più ora che fine abbia fatto questo ragazzo. Però Gesù lo ha guarito, non sono stato io che l'ho guarito. Io voglio sbloccare la libertà, lo Spirito Santo vuole sbloccare la libertà sopra di te. Quindi mentre chiudiamo tutti quanti gli occhi, qui a Mottola, a casa, se tu sai che non ti sei mai veramente sentito libero di poter ricevere doni da parte dello Spirito Santo, per poter avere una parola di incoraggiamento per qualcuno, per poter profetizzare su qualcuno, per poter parlare nuove lingue, per poter pregare per guarigione, io voglio invitarti ad alzare le tue mani adesso, come segno di arresa, davanti a Dio, per dire: Signore Gesù, io mi sto arrendendo adesso, davanti a te. Io ti ringrazio, Gesù, perché tu mi hai scelto, perché tu mi hai amato, perché tu mi hai chiamato, perché tu mi hai equipaggiato e mi hai dato un sigillo. E questo sigillo parla di chi io sono in te. E io ti ringrazio perché tu sei generoso. Spirito Santo, tu sei generoso. E io voglio essere libero. Voglio liberare la mia mente. Voglio liberare i miei pensieri, voglio smetterla di sentirmi un fallito perché non riesco a ricevere quello che tu mi vuoi dare. Voglio chiederti scusa, voglio chiederti perdono, perché il mio sentirmi fallito e non libero è un peccato davanti a te, perché tu mi hai scelto per cose straordinarie. E io voglio viverle, io voglio afferrarle, io voglio prenderle, perché tu mi ami e perché tu ami le persone intorno a me. E tu ami che loro ti riconoscano come loro salvatore, tu ami che loro possano capire chi tu sei e tu vuoi servirti di me per manifestare la tua potenza. Spirito Santo, vieni e riempimi. Vieni. Io mi arrendo a te, mi arrendo a te nell'essere guidato da te, nel parlare una lingua che non conosco, nel pregare con fede che tu sei potente da operare. Nel sapere che tu vuoi incoraggiare qualcuno attraverso di me. E io voglio essere in grado di poterlo fare, perché ti amo, Gesù, e perché la mia vita appartiene a te. Mi arrendo alla tua presenza. Confessiamo le parole di questo coro con fede, sapendo che lo Spirito Santo ci riempie e ci equipaggia per essere suoi figli in questo mondo.